Lucifer is lonely. Standing there, killing time. Can't commit to anything but a crime. Leaders on vacation. An open invitation. Animals, evidence. Pearly gates look more like a picket fence. Once you get inside them, got friends but can't invite them. Hills burn in California. My turn to ignore ya. Don't say I didn't warn ya. All the good girls go to hell. Cause even God herself has enemies. And once the water starts to rise and heaven's out of sight, she'll want the devil on her team. My Lucifer is lonely. Look at you, needing me. You know I'm not your friend without some greenery. Walking wearing feathers, Peter should know better. Your cover-up is caving in. Man is such a fool, why are we saving him? Poisoning themselves now, begging for our help. Wow. Hills burn in California. My turn to ignore ya. Don't say I didn't warn ya. All the good girls go to hell. Cause even God herself has enemies. And once the water starts to rise and heaven's out of sight, she'll want the devil on her team. Lucifer is lonely. There's nothing left to say. My God is gonna own me. There's nothing left to say. I cannot do this, snowflake! Ciao a tutte, ciao a tutti, questa è una nuova puntata di La Mucca Libera, puntata del 5 ottobre 2020, l'unico programma antispecista su www.radiasilo.it, in onda tutti i lunedì dalle 19 alle 20 ed in replica il giorno dopo, il martedì, a partire dalle 11. Cominciamo subito con le notizie che ci sembrano più importanti e partiamo non dall'Italia ma dall'estero, con uno sguardo a ciò che avviene negli altri paesi, in particolare Francia, Svizzera. In Francia ci sono state questa settimana delle dichiarazioni molto importanti da parte della Ministra dell'Ambiente che parlano di alcuni divieti che inizieranno ad essere attivi molto presto, anche se non è ancora chiaro quando entreranno in vigore. La Ministra è stata molto specifica su tre norme. Il divieto dell'utilizzo di animali selvatici all'interno dei circhi itineranti, il divieto che partirà di riproduzione in cattività di orche e delfini e il divieto di allevamenti dell'esistenza proprio degli allevamenti di visoni. Gli allevamenti di visoni in Francia attualmente sono 4 e dovranno quindi iniziare a considerare una prossima chiusura, sebbene, come dicevo prima, non è chiaro quando queste norme entreranno in vigore, ma la ministra ha parlato anche di altre norme che seguiranno e che porteranno nell'arco di 5-7 anni alla chiusura degli acquari e alla chiusura e trasformazione di circhi itineranti. Queste norme non riguarderanno però purtroppo, ai noi, i circhi stabili, ma solamente appunto le strutture itineranti E per questa chiusura ed eventuale riconversione, diciamo, la ministra ha già dichiarato che sono stati stanziati 8 milioni di euro. Questa cifra sarà sicuramente necessaria, innanzitutto per la riconversione dei lavoratori e delle lavoratrici che sono all'interno di queste strutture, ma anche probabilmente per ciò che riguarda tutti gli animali, il destino di tutti gli animali presenti all'interno di queste strutture e in modo particolare ricordiamo che già solo come grandi felini, tra tigri e leoni, in queste strutture attualmente ne sono presenti circa 500, quindi sarà sicuramente diciamo, un cambiamento di vita che riguarderà diverse centinaia di animali. Passiamo ora alla Svizzera, ne avevamo parlato anche nella puntata del 24 settembre, perché la domenica successiva, il 27 settembre, in Svizzera si sarebbe tenuto un referendum e si è tenuto un referendum sulla fauna selvatica. Questo referendum era molto sentito dalla popolazione locale perché la legge sulla caccia era stata rivista ad aprile 2019, ed era stata rivista in un senso che per molte associazioni animaliste e ambientaliste, così anche come per molte persone, diciamo, comuni, era considerato molto critico. In particolare, i punti critici erano la questione dell'abbattimento e la possibilità di abbattimento di animali protetti, anche senza che questi animali avessero creato dei danni effettivi. E in particolare in questa direzione i cantoni avrebbero potuto avere una certa autonomia, nel senso che avrebbero potuto decidere degli abbattimenti, allungando anche la lista di specie protette da poter abbattere e considerando che queste specie appunto da abbattere per quanto protette, cioè gli appartenenti a specie protette, questi animali da poter abbattere non necessariamente avrebbero dovuto creare danni alle persone, ma sarebbe stato sufficiente danni comunque avvicinamenti anche senza grandi danni a zone abitate dagli esseri umani e da animali da reddito. Addirittura il governo si era difeso sostenendo che questa norma sarebbe stata importante per insegnare ai branchi di animali selvatici a non avvicinarsi e a non creare danni alle zone che invece sono abitate dall'animale umano. E quindi una motivazione molto poco convincente e sicuramente molto specista, che appunto aveva poco convinto ma varie associazioni, e aveva portato quindi il 27 settembre a un referendum sulla fauna selvatica, tenendo presente che in particolare questa situazione avrebbe gravato molto sull'esistenza e sulla vita del lupo e dello stambecco. Fortunatamente questa revisione della legge è stata respinta al referendum, anche se un po' di misura ha vinto il no, per cui adesso possiamo considerare che in Svizzera in questo momento il lupo è per ora salvo. Restiamo per un attimo all'estero, parliamo della Scozia, perché parliamo di un gruppo di un piccolo branco di balene che definirei resistenti, perché sono giorni che ci sono ripetuti tentativi da parte degli esperti di fauna marina per far allontanare questo piccolo branco di balene da una zona lungo la costa scozzese. Il motivo per cui queste balene dovrebbero abbandonare il loro luogo di vita è perché nelle prossime settimane è stata prevista una vasta esercitazione militare a partire dalla NATO, un'esercitazione NATO. E nonostante l'organizzazione britannica Divers Marine Life Rescue si sia molto sforzato di spostare queste balene, ha posizionato una decina di imbarcazioni come barriera, cercando quindi di direzionare queste balene verso l'allontanamento, questo piccolo branco ha deciso di cambiare direzione perché sono a quanto pare molto determinati a rimanere invece in queste acque. E il problema, quindi, sicuramente io e noi, diciamo come la Mucca Libera, applaudiamo queste banene resistenti che mostrano uno dei bisogni, cioè quello di vivere in una determinata zona e con determinazione cercando di affermare questo bisogno, e d'altra parte senza saperlo, in realtà stanno bloccando un'operazione NATO. La nostra unica paura è che in realtà questa operazione militare si svolga lo stesso, che le forze armate del Regno Unito e di tutti gli altri paesi NATO che devono prendere parte a questa esercitazione militare, che a quanto pare coinvolgerà 28 navi da guerra, due sottomarini e 81 aerei, non si fermino e quindi arrivino comunque in quella zona e purtroppo creino disagio alla vita di quei cetacei lì. Auguriamo a queste balene di resistere e di vincere sull'animale umano. E siamo ancora in Europa, perché sono quasi 1,5 milioni di firme, quelle che sono alla fine di un'iniziativa di cittadini europei. Che sono state autenticate dagli Stati membri dell'Unione Europea e che sono state consegnate pochi giorni fa alla Commissione Europea. Il motivo per cui viene presentata questa iniziativa è che sia posta fine all'uso delle gabbie negli allevamenti. Le associazioni italiane che hanno partecipato, sono 21, in un totale europeo di 170, che aderiscono a questa coalizione europea, il cui nome è End the Cage Age, e hanno ritenuto questa associazione la giornata della consegna, una giornata che hanno definito come storica, fra le più significative per la vita di centinaia di milioni di animali. Questo perché noi sappiamo che sono tantissimi gli animali allevati in gabbia nell'Unione Europea, sono tantissimi gli animali che sono costretti a vivere negli allevamenti intensivi di tutto il mondo, conosciamo bene la crudeltà di tutti gli allevamenti intensivi e parliamo di una cifra di animali allevati in gabbia, tra suini, galline, conigli, oche, quaglie e vitelli, che supera i 300 milioni di animali. E nel presentare in conferenza stampa questa iniziativa, le associazioni italiane hanno anche dichiarato che questa iniziativa deve essere un messaggio chiaro non solo per l'Europa ma anche per il governo italiano. Si sono rivolte direttamente alla ministra delle politiche agricole Teresa Bellanova, al ministro della salute Roberto Speranza e hanno chiesto che si smetta di investire nei sistemi di allevamento che prevedono la gabbia e che i fondi del Recovery Fund che devono essere spesi in seguito, come sappiamo, alla pandemia da Covid-19, non siano spesi per ristrutturare, per incentivare o per costruire dei sistemi che prevedano gabbie. E noi purtroppo sappiamo che non è così, ne abbiamo parlato anche la settimana scorsa di quelli che erano i fondi del Recovery Fund, che addirittura prevedono la costruzione di nuovi acquari. Veniamo adesso a parlare dell'Italia. In realtà facciamo un piccolo salto ancora all'estero in Danimarca per poi ritornare velocemente in Italia. E il piccolo salto in Danimarca è dovuto al fatto che proprio pochi giorni fa si è saputo che la Danimarca è pronta ad abbattere circa 1 milione di visoni da pelliccia dopo che nell'ultimo mese sono state scoperte nuove infezioni da coronavirus tra i visoni presenti all'interno degli allevamenti. C'è da considerare che la Danimarca è tra i più grandi allevatori mondiali di visone, c'è una grandissima produzione di oggetti di abbigliamento, cappotti, sciarpe, borse all'interno di questo paese. Per cui molti sono gli allevamenti in Danimarca e sono stati registrati casi in 41 di questi allevamenti. Inoltre, altri 20 allevamenti sono in questo momento sotto osservazione perché probabilmente anch'essi colpiti. Il totale, quindi, circa dichiarato attualmente è 1 milione di visoni, almeno in base alle dichiarazioni del ministro dell'Ambiente della Danimarca in conferenza stampa. Il ministro dell'Ambiente ha anche detto di voler evitare che questi allevamenti diventino un rischio di infezione per le altre persone, per cui a scopo precauzionale ne ha disposto l'abbattimento di moltissimi animali considerati infetti e addirittura, sempre a scopo precauzionale, questo abbattimento includerà allevamenti che sono situati entro gli 8 chilometri dagli impianti che hanno avuto gli animali infetti. Ovviamente dell'abbattimento di visoni e allevamento abbiamo parlato molto spesso ai nostri microfoni, anche nel periodo di maggio, di giugno, ha riguardato diversi paesi, Paesi Bassi, la Spagna, ci sono stati in questi paesi focolai e abbattimenti, così come anche ne abbiamo parlato anche rispetto ad alcuni zoo, ma questa notizia ha fatto interrogare la LAV rispetto alla situazione, la Lega Antivivisezione rispetto alla situazione oggi in Italia. Oggi in Italia ci sono oltre 60.000 visoni, perché ci sono 8 allevamenti intensivi in Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna e Abruzzo. Secondo la LAV, questi allevamenti di visone sono potenziali bombe ad orologeria, così sono state definite, per cui l'associazione si è appellata al Ministro della Salute Speranza per introdurre anche in Italia il divieto all'allevamento di visoni e altri animali per la produzione di pellicce, basandosi appunto sulla possibilità che questi allevamenti di visoni siano un possibile focolaio di virus da Covid-19 con conseguenti rischio di trasmissione anche all'uomo. Tra l'altro, in un processo di trasmissione che è stato sottolineato, è potenzialmente più pericoloso, dato che le condizioni di allevamento intensivo favoriscono una riproduzione più rapida ed efficiente del virus, con numerose mutazioni del virus anche ogni 2 settimane, e quindi appunto potenzialmente ancora più pericoloso per l'uomo. Restiamo in Italia per parlare di un'altra notizia che riguarda questa volta una specie a cui noi teniamo particolarmente, che è il lupo. In questi giorni è arrivata una notizia che ci fa credere che ci sarà ancora meno protezione per il lupo, perlomeno nelle regioni alpine, dove il lupo pare fare ancora molta paura. Questo perché i capi di governo delle comunità di lavoro delle regioni dell'arco alpino, ARGELP, riuniti a Salisburgo, hanno approvato una risoluzione. Questa risoluzione prevede una richiesta all'Unione Europea di rivalutare lo status dei lupi, che attualmente è uno status di protezione in base a una direttiva europea dal nome Habitat, di cui anche abbiamo già parlato ai nostri microfoni, nella nostra trasmissione. E quindi con questa istanza loro richiedono all'Unione Europea di appunto rivalutare questo status di protezione. L'obiettivo sarebbe garantire la tutela dell'agricoltura e dell'alpeggio alpini e chiedono anche contestualmente all'Unione Europea di finanziare delle misure di protezione delle greggi e quindi di mettere a disposizione dei fondi per queste nuove misure di protezione. Chiedono anche, cosa già avvenuta in passato, un monitoraggio e una valutazione appunto dello status del lupo che viene definito il predatore. Sicuramente questa è una notizia che appunto fa temere molto per la situazione del lupo all'interno delle regioni alpine. Abbiamo anche una notizia sempre in Italia che riguarda la caccia. La stagione venatoria, come sappiamo, si è aperta anche quest'anno con largo anticipo, ma stavolta le notizie che ci arrivano sono delle notizie in qualche modo positive, perché il TAR in Sicilia ha accolto un ricorso che era congiunto di Legambiente, WWF e LIPU e disposto così la sospensione della caccia al coniglio, ha vietato gli abbattimenti di diverse specie, tra cui il faggiano e la beccaccia. Ha sancito l'integrale protezione della specie pavoncella e moriglione, che sono tipiche delle zone umide, e quindi in qualche modo il TAR ha riconosciuto un minimo di stop appunto rispetto alle possibilità della caccia e dei cacciatori, sempre molto protetti invece dalla legge. Contemporaneamente, sempre in questi giorni, a Roma la Corte di Cassazione ha confermato una sentenza che c'era già stata precedentemente della Corte d'Appello di Bolzano, sentenza a Bolzano che nello scorso febbraio aveva condannato due figure politiche di spicco, l'allora presidente della provincia e l'allora direttore di caccia e pesca della provincia, perché avevano emanato una serie di decreti, decine e decine di decreti, che consentivano ai cacciatori altoatesini di uccidere milioni di animali selvatici, uccelli, animali in realtà protetti dalle norme europee. Quindi al ricorso fatto da appunto queste due persone condannate, la Corte di Cassazione a Roma invece ha confermato la sentenza. Allora, adesso andiamo a leggere un appello che ci viene da Agripunk, il rifugio sociale per animali liberi, un appello urgente per le mucche ribelli di Palaia. Da un paio di mesi stiamo seguendo una storia, ci dicono da Agripunk, cercando insieme ad un gruppo costituitosi nella zona interessata di riuscire a farla finire nel migliore dei modi. Però purtroppo siamo in una situazione di stallo, quindi chiediamo anche il vostro aiuto per provare a risolverla tutti e tutte e tutto insieme. La storia è questa. Tre vitelle vivevano allo stato brado in Sicilia. Sono state prese e portate in Toscana in un allevamento da carne. Ma se sei nata libera è difficile tenerti legata. Infatti loro sono riuscite a fuggire e a ritornare libere. Da qualche mese se ne stanno nei dintorni di Palaia, Pisa, felici e beate. Però purtroppo la loro presenza ha destato preoccupazioni perché accanto alla zona dove stazionano passa una strada statale. Ciò può costituire un pericolo per loro stesse e per chi transita lungo quella strada, e questo ha portato all'ordinanza di cattura. Si è creato un gruppo nella zona di persone solidali e coresistenti che da un po' stanno cercando una soluzione per evitare il peggio. Per un paio di mesi hanno provato a sentire varie persone e situazioni per metterle al sicuro ed evitare che l'ordinanza di cattura si trasformasse in ordinanza di abbattimento. La situazione ora è questa: il comune ha dato tempo per dar modo che vengano catturate e portate in un posto sicuro. Il proprietario le cede gratuitamente al gruppo solidale. C'è un trasportatore disposto a prenderle e a portarle nella loro nuova casa. Entro i 15 chilometri non chiede nulla. e il gruppo di supporto è disponibile ad aiutare con un piccolo contributo mensile, ma dopo varie promesse purtroppo sfumate, non c'è ancora un posto dove portarle. Il tempo stringe perché il comune inizia a fare pressioni, perché la situazione venga risolta il prima possibile. Noi purtroppo non possiamo accoglierle e abbiamo provato tutte le carte del nostro mazzo, o quasi. Infatti ora siamo qui a tentare l'ultima mossa e a chiedere anche il vostro aiuto e supporto. Così finisce il comunicato di Agripunk, però abbiamo un aggiornamento del 4 ottobre che ci dice che le caselle email del comune sono intasate, quindi per ora fermiamoci un attimo. Questo perché appunto era stato promosso un mail bombing sul sito del comune. Il sindaco di Palaia ci ha scritto che prenderà seriamente la questione e quanto gli è stato proposto nelle prossime ore lo contatteremo per parlarci direttamente e vedere insieme quali soluzioni possono essere valutate. Nel frattempo non taggate rifugi sanitari che sono già al corrente della storia e che non possono come noi accoglierle per la solita carenza di volontari e fondi per il mantenimento delle belve. E su come siamo arrivati a questa situazione facciamoci due domande, per favore. I rifugi vanno supportati ed aiutati concretamente, altrimenti smettono di esistere. Quello che cerchiamo è qualche privato o azienda agricola o agriturismo, preferibilmente vegan, che possa accoglierle senza sfruttarle. Dai, dai, che il tempo stringe. Per segnalarci un posto che può essere la loro nuova casa, per proporvi come adottanti, si può scrivere all'email, la diamo perché è importante, agripunkonlus@gmail.com. E noi ci uniamo all'appello di Agripunk, se qualcuno ha questa possibilità, magari, insomma, può scrivere a questa mail che, ripeto, è agripunkonlus@gmail.com. Torniamo a parlare di una vicenda di cui abbiamo già parlato in passato, è quella dei macachi di Torino, perché tra pochi giorni è attesa la pronuncia decisiva del Consiglio di Stato che potrà salvare i macachi oggetto del terribile esperimento Light Up con lesione della vista e uccisione ad opera delle università di Parma e Torino. In difesa dei macachi c'è stato un evento della Lega Antivivisezione sabato 3 ottobre, c'è stato un evento sul web, una specie di corteo virtuale in diretta Facebook per fermare questo terribile esperimento, approfondire insieme a degli ospiti gli aspetti scientifici, etici, giuridici e filosofici della sperimentazione e ripercorrere i mesi di mobilitazione. Infatti abbiamo documentato la mobilitazione della LAV che da oltre un anno, insieme ad altre sigle animaliste nazionali ed europee, ricercatori e vari attiviste e attivisti impegnate a denunciare il mancato rispetto dei requisiti sperimentali richiesti dalla legge e chiedere la revoca dell'autorizzazione al progetto e la liberazione di tutti gli animali. Purtroppo, ci ricorda la Lega Antivivisezione, nel lungo e tormentato iter legale, l'ultima sentenza del TAR Lazio è stata negativa, ma abbiamo già annunciato il ricorso al Consiglio di Stato nella speranza che si pronunci al più presto, accogliendo le nostre fondate ragioni giuridiche e scientifiche. Quindi c'è stato questo evento virtuale sabato 3 ottobre e il fiore all'occhiello di questo incontro è stata la testimonianza relativa al progetto di recupero dei macachi salvati dai laboratori. Infatti la LAV ha finanziato all'interno del centro di recupero di Sempronianu a Grosseto la realizzazione di due nuove aree destinate all'accoglienza di primati non umani dismessi da laboratori dove venivano utilizzati per la sperimentazione. Quindi attendiamo la sentenza del Consiglio di Stato e ne parleremo sicuramente le prossime trasmissioni, sperando che venga fermato questo progetto terribile, questo esperimento, Light Up, e i macachi siano liberati al più presto. E restiamo in Italia perché parliamo del nuovo rapporto di Greenpeace dal titolo Foraggiare la crisi, che è uscito proprio in questi giorni e che mette in relazione diretta le politiche europee di sostegno al settore agricolo e il peggioramento delle condizioni ambientali. Un paradosso molto sottolineato dall'associazione Greenpeace. Soprattutto perché ricorda in questo rapporto che tra gli obiettivi dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile c'era proprio una riduzione, un miglioramento delle condizioni ambientali, delle operazioni di contrasto dei cambiamenti climatici e che avevano fissato alcuni parametri. In modo particolare questi accordi che furono stipulati a Parigi nel 2015 tra le Nazioni Unite avevano individuato nell'1,5 il massimo aumento di temperatura tollerabile rispetto all'era preindustriale e avevano, per raggiungere questo risultato, avevano stabilito due traguardi. Da un lato un dimezzamento delle emissioni entro il 2030 e dall'altro invece entro il 2050 lo zero netto, cioè lo zero netto, quello che viene definito come zero netto, è considerata la parità tra emissioni e la capacità di assorbimento da parte della Terra. E ovviamente tutto questo non si è verificato, non c'è assolutamente questo. Non si sono verificate questi elementi di riduzione delle emissioni e addirittura è molto chiaro il rapporto, ripeto, si intitola Foraggiare la crisi perché parla del fatto che gli allevamenti intensivi sono alla base del 17% delle emissioni totali di gas serra in tutta l'Unione Europea, che è un valore sicuramente molto superiore a quello di tutte le auto e tutti i furgoni, camion, eccetera, in circolazione, che invece risultano essere responsabili delle emissioni per il 14%, quindi molto più, insomma, più basso. E tra l'altro questo dato, come sottolinea il rapporto, è l'effetto di un progressivo aumento dell'impatto degli allevamenti, che è cresciuto del 6% nel decennio compreso tra il 2007 e il 2018. Questi dati percentuali in termini assoluti equivalgono a 39 milioni di tonnellate di anidride carbonica, ovvero l'equivalente di 8,4 milioni di automobili in più sulle strade europee. E per questo motivo, sottolineano nel rapporto di Greenpeace, avere questi obiettivi entro il 2030 e entro il 2050, così come sanciti dall'Agenda 2030, non sarà possibile se non si interverranno, non si interverrà a livello europeo drasticamente sulla produzione e sul consumo non solo di carne, ma anche di latte e dei derivati del latte. Ovviamente la responsabile della campagna agricoltura di Greenpeace Italia sottolinea che questi numeri sono molto chiari, che non avrebbero bisogno di un'analisi, ma che la loro analisi mostra chiaramente che le conseguenze peggiori avverranno, la crisi climatica non sarà fermata se a livello politico non sarà presa una decisione e la decisione da prendere è quella di non sostenere più produzione intensiva di carne, latte e derivati, per cui chiedono a gran voce la fine delle sovvenzioni pubbliche per l'allevamento intensivo, utilizzando invece questi fondi per sostenere la riduzione del numero di animali allevati, per aiutare gli agricoltori ad un passaggio di transizione. E sembra che sia questa l'unica strada sostenibile. Perché il cambiamento di abitudini alimentari, che ovviamente noi sottolineiamo, può essere solo in parte deputato a una responsabilità personale, ma che ovviamente deve avere un più ampio respiro, è la via sostanziale per ridurre e di parecchio tutte le emissioni che appunto sono dovute alle attività agricole. La zootecnia europea emette ogni anno l'equivalente di 502 milioni di tonnellate di anidride carbonica, che salgono a 704, tenendo conto anche delle emissioni indirette di gas serra dovute alla produzione di mangimi per gli animali allevati. dovute alla deforestazione, dovute anche alla trasformazione dei suoli. E questo è nel concreto ciò che non può essere più, diciamo, messo da parte da tutti i leader politici europei. Questo rapporto di Greenpeace sta circolando molto, speriamo che in qualche modo possa aprire gli occhi su una realtà a cui non possiamo più non dare conto. In Italia la scorsa settimana c'è stato un forte maltempo, come ben sappiamo, abbiamo vissuto anche nella zona del sud. Ma soprattutto al nord, le regioni più colpite, Liguria, Piemonte, Lombardia e Valle d'Aosta, perché è un maltempo che si è abbattuto soprattutto sull'Italia settentrionale, hanno stimato molti danni provocati all'agricoltura, ma purtroppo anche interi greggi dispersi, animali bloccati in alpeggio, serre divelte, frutteti, coltivazioni distrutte, alberi abbattuti, risaie allagate. Tra l'altro, in un momento in cui sottolinea Coldiretti, è proprio il momento della raccolta. Tra l'altro, in Liguria si segnalano frane e smottamenti, con difficoltà anche per le aziende in alpeggio, danni alle colture in campo con forte vento, trombe d'aria che non hanno risparmiato neppure le olive in un momento in cui si era ormai vicine alla raccolta. Mentre in Valle d'Aosta, campi allagati per l'esondazione della Dora in Bassa Valle. Sono numerosi, così come sono numerose le serre divelte dal forte vento, le stalle evacuate, i frutteti distrutti e i vigneti che sono pesantemente danneggiati. Ma anche in Piemonte il maltempo non ha risparmiato il Piemonte, con campi allagati in tutta la regione, imprese floricole che sono completamente sott'acqua e difficoltà anche di poter rientrare con gli animali a valle, visto che le infrastrutture, diciamo, delle vie sono state in qualche modo smottate o compromesse da quello che era il maltempo. Insomma, la natura si ribella in qualche modo. Non potevo non collegarlo alla notizia precedente riguardo il rapporto di Greenpeace. Inauguriamo questo mese una nuova rubrica che è un report sul clima che riguarda tutti gli eventi climatici più importanti o gli studi climatici più importanti del mese immediatamente precedente. Quindi in questa prima occasione parleremo del mese di settembre 2020. E per quanto la nostra trasmissione si occupi, essendo una trasmissione antispecista, si occupi soprattutto e si interessi soprattutto di quello che è il rapporto fra le specie umane e non umane, in realtà non possiamo prescindere, come spesso accade, ai nostri microfoni, da alcune considerazioni riguardanti il clima e il cambiamento climatico, come del resto è avvenuto anche in questa puntata. Per questo motivo abbiamo deciso di dedicare una volta al mese, con una rubrica specifica del tempo anche alle notizie, riguardanti il cambiamento climatico. La prima notizia del mese di settembre riguarda gli incendi, che sono avvenuti in Oregon e in California, che sono stati del tutto fuori controllo, per cui il risultato sono 3 milioni e 6 di acri completamente distrutti ed è il record di emissioni di gas serra che sono stati prodotti. Altra notizia, la Danimarca ha ribadito l'obiettivo di tagliare le emissioni del 70% entro il 2030, come data di cui parlavamo anche prima, in rapporto al report di Greenpeace, aggiungendo alla Danimarca che il welfare però rimarrà invariato. Passiamo a parlare quindi dei ghiacciai. Se ne è parlato a lungo a settembre per due notizie molto importanti. La prima riguarda la Groenlandia. I ghiacciai in Groenlandia hanno subito una riduzione talmente tanto importante che ormai, al di là degli interventi mirati contro il riscaldamento globale, la canotta glaciale continuerà in ogni caso a sciogliersi, e questo è quanto dichiarato in uno studio di esperti pubblicato della Ohio State University, in base ai dati satellitari mensili che arrivano da oltre 200 grandi ghiacciai e che è stato pubblicato proprio nel mese di settembre. La Groenlandia, quindi i ghiacciai della Groenlandia purtroppo quindi hanno raggiunto ormai il punto di non ritorno. E restiamo sempre a parlare del ghiaccio perché un'altra notizia che riguarda il vicino ghiacciaio della Marmolada. ha ridotto dell'80% il suo volume e gli esperti stimano che entro 15 anni ormai purtroppo scomparirà del tutto. L'estate 2020 è stata la più calda di sempre nell'emisfero settentrionale, o almeno la più calda da mai datata, quindi da quando sono iniziate le misurazioni. E ancora le ultime notizie riguardano un'idea che parte dai biologi marini, sempre parlando dell'effetto serra, quindi una delle cause principali del riscaldamento globale, che sappiamo prevede delle soluzioni comunque molto costose, non testate. Hanno, in questa, diciamo, situazione, i biologi marini hanno trovato una via che ci sembra molto, diciamo, a basso profilo tecnologico, perché secondo uno studio una balena nella sua comunque lunga vita arriva a sequestrare fino a 33 tonnellate di CO2, per comprenderci un albero fino a 21 kg circa ogni anno, e quindi quando muore la carcassa della balena si porta tutta questa CO2 intrappolata giù nei fondali oceanici, e dove resta lì. E tra l'altro questi cetacei sono in grado di smuovere e portare in superficie minerali e sostanze che, restando ferme in profondità, non salirebbero su, una sorta di nastri trasportatori acquatici, e i loro pennacchi fecali, cioè gli escrementi ricchi di ferro e azoto, sono minerali cruciali per la formazione e per la proliferazione del vero grande elemento atmosferico che assorbe la CO2, cioè il fitoplancton. Il plancton, oltre a contribuire a produrre almeno il 50% di tutto l'ossigeno presente in atmosfera, cattura ogni anno circa 37 miliardi di tonnellate di CO2, cioè circa il 40% di tutta la CO2 prodotta. Quindi le balene contribuiscono in qualche modo, non solo direttamente, ma anche grazie alla creazione di plancton, nella riduzione dei gas serra. Per cui, se si riuscisse a portare il numero delle balene che sono in circolazione, che oggi si attesta intorno agli 1,3 milioni, ai 4, circa 5 milioni dell'era precedente, alla nascita delle baleniere e allo strazio che ne ha fatto l'animale umano, l'impatto ovviamente sui cambiamenti climatici sarebbe massiccio, sottolineano questi esperti. E con quest'ultima notizia era tutto sulla rubrica riguardante il cambiamento climatico, che aggiorneremo il prossimo mese. Two is gone. E dalle news passiamo adesso a parlare di un argomento sicuramente molto attuale, e ne abbiamo parlato più e più volte tutte le settimane sostanzialmente a questi microfoni perché seguiamo molto da vicino la situazione degli orsi in Trentino ed oggi intendiamo fare il punto della situazione con un'attivista antispecista, Stefania, che ringraziamo molto per essere per la prima volta ai nostri microfoni e che in questi giorni, ormai da più di una decina di giorni, è impegnata in uno sciopero della fame proprio per la situazione degli orsi, in particolare la situazione che è stata denunciata, vivono gli orsi all'interno del Casteller di cui abbiamo più volte parlato. Ciao Stefania, grazie e benvenuta. Io comincerei subito a parlare di quella che è la situazione attuale di quella prigione, perché noi così la definiamo, che è quella prigione orribile che è il Casteller, e poi se ne hai voglia farei anche un punto su quella che è la situazione tua attuale di sciopero della fame che ti vede impegnata insieme ad un'altra attivista. Sì, buongiorno Silvia, buongiorno a tutti quelli che stanno ascoltando. Allora, io sono Stefania, porto avanti dal 21 di settembre, insieme a una mia carissima amica antispecista, che si chiama Barbara, lo sciopero della fame affinché, come azione politica, è importante sottolineare questo, è un'azione politica. Ed è una forma di resistenza animale in solidarietà con altri animali. Noi apparteniamo al regno animale, quotidianamente comunque siamo vessati dal potere e quindi troviamo doveroso come animali unirci nella resistenza al medesimo contro l'abuso del potere, insieme ad altri, in solidarietà, in complicità con gli altri animali. Nella fattispecie, in questo caso, gli orsi del Trentino, gli orsi del famigerato, progetto Life Ursus, che inneggia la vita degli orsi, perché comunque erano stati finalmente rintrodotti in Trentino dopo essere stati decimati da secoli di caccia e poi nell'età moderna dalla presenza costante, sempre più invasiva delle attività umane, della presenza umana, vengono rintrodotti per poi essere decimati nuovamente, perché in realtà questo si sta facendo. Si stanno decimando con le sparizioni, si stanno decimando con le captivazioni, che sono delle catture permanenti, come che è un affronto terrificante che viene dato a qualsiasi individuo vivente che reclama il diritto ad essere individuo libero. Ancora più terrificante è se questa captivazione permanente, quindi questo carcere a vita senza sconti di pena, che fra le altre cose la pena non c'è, non c'è. Questa captivazione permanente viene applicata a degli animali che per antonomasia sono animali liberi, sono animali selvatici. Il nostro linguaggio specista, il nostro linguaggio antropocentrico li chiama animali selvatici quasi in senso spregiativo, no? Come se noi fossimo gli animali civili. In realtà nasconde un inganno. Noi li perseguitiamo perché sono gli ultimi animali liberi sulla faccia della terra. Li abbiamo ormai addomesticati tutti, li abbiamo rinchiusi tutti, quindi non possiamo tollerare che ci siano degli orsi liberi, o meglio, li possiamo tollerare sino a quando la loro reintroduzione porta milioni di euro tramite i fondi europei, tramite tramite gli aiuti statali, oppure li possiamo tollerare se questi orsi rientrano nel ristretto numero di orsi che saranno una risorsa di marketing, vedi i parchi faunistici, ad esempio, ma gli orsi liberi, totalmente liberi, no, no, non li possiamo tollerare. Questo è il problema. Li chiamiamo animali selvatici, li facciamo diventare animali confidenti, quindi pericolosi per l'uomo, e lo facciamo noi, di proposito, banalmente, banalmente, non applicando tutte le norme che avrebbero dovuto accompagnare il progetto Life Ursus. Chi ha voglia di andare a studiarsi il progetto Life Ursus, il Paco Bace, le variazioni del Paco Bace, scoprirà una miriade di informazioni e scoprirà anche come sarebbe facilissimo, facilissimo dividere un po' i due aspetti, no? Che gli orsi, dare la libertà, dare la facoltà agli orsi di vivere nel loro ambiente, nel loro territorio che spetta di competenza, per diritto di nascita, che sono i boschi, e noi adoperarci affinché i contatti diretti uomo-orso siano inesistenti, il meno possibile, se non addirittura inesistenti. Basterebbe applicare alla lettera quello che è stato scritto, redatto, legiferato, normato al momento della stesura del progetto Life Ursus, cosa che in realtà non è stata fatta. Quindi adesso non si procede più con gli interventi che appunto disciplinano il nostro approcciarsi agli orsi. No, no, ora si continua a ricorrere agli unici due interventi che soprattutto questa giunta ritiene opportuno applicare: la captivazione e la cattura. La captivazione e la cattura. C'è quella momentanea che per radiocollare l'animale e poi viene liberato, ma quella terrificante contro la quale noi ci battiamo è la captivazione permanente, è quella che stanno subendo gli animali chiusi dentro al Casteller, è quella che fra 3 giorni potrebbe abbattersi su JJ4, mamma orsa, lasciando incustoditi i propri cuccioli alla mercé dell'inverno imperante, senza via di scampo, esattamente come è successo per Danica. Questa si chiama captivazione permanente. Poi c'è l'equivalente, perché per noi antispecisti la prigionia equivale alla morte. C'è anche questo nel Paco Bace. La lettera K degli interventi fa capo alla matanza degli orsi, che era stata stilata per appunto JJ4, l'orsa del Peler, mese di luglio 2020. Scusate, giugno 2020, poi in fretta e furia, anche grazie a un respingimento del TAR, è stata tramutata in ordinanza di captivazione permanente, anche questa respinta dal TAR, il cui pronunciamento finale però sarà soltanto l'8 di ottobre, quindi fra tre giorni, mamma orsa, potrebbe, e c'è una spada di Damocle che pende sulla sua testa, fra 3 giorni potrebbe riguadagnarsi il diritto che gli uomini le stanno estorcendo alla libertà assieme ai suoi figli, oppure finire al Casteller. Vorrei ora riprendere un attimo la domanda, dare delle risposte alla domanda che ha fatto Silvia, una domanda pertinente, chiede appunto, si interessa di com'è la situazione all'interno del Casteller, questo famigerato recinto che in questo momento ospita appunto tre orsi, M49, M57, DJ3. Ma attenzione, questo c'è pendente un'ordinanza di cattura per JJ4, mamma orsa, più un'ordinanza che è stata emessa così per altri due orsi che dovrebbero finire al Casteller appena si avvicinano ai centri abitati. Bisognerebbe poi attentamente verificare il perché si avvicinano ai centri abitati. Comunque, tornando al discorso del Casteller, provate a immaginare per un orso che è nato, attenzione, tutti questi orsi, quindi parliamo di M49, M57, DJ3. Se il TAR non blocca la condanna a morte, perché questa è una condanna a morte, la prigionia è una condanna a morte di JJ4 e gli altri due che nemmeno sappiamo chi sono, ma la spada di Damocle pende anche su di loro, tutti questi sono orsi che sono nati in libertà. Attenzione, con questo non voglio assolutamente che passi il messaggio che ci possono essere animali che devono vivere in cattività. Assolutamente, noi siamo antispecisti, quindi siamo contrari per principio, proprio per fede, per azione politica, per presa di posizione politica a qualsiasi forma di schiavitù e di dominio dei corpi dei viventi. A quattro e a due gambe, quindi non ci possono essere animali a cui viene consentita per legge la schiavitù. Ma qui parliamo di orsi sono nati in mezzo ai boschi, sono stati catturati vilmente in mezzo ai boschi e vengono portati in un recinto chiusi nelle gabbie. Sì, signori, nelle gabbie. Addirittura M49, il mito Papillon, a lui hanno fatto un regalino in più, perché dato che è un orso che comunque deve essere domato maggiormente, allora gli hanno fatto provare anche 3 mesi di bunker, signori, 3 mesi di bunker. Bunker. Allora, i mezzi di informazione lo hanno chiamato la tana, che ricorda molto la tana dove gli animali si nascondono per il letargo. Gli orsi vanno in letargo. Peccato che in cattività gli orsi non vadano in letargo, appunto perché non riescono a esplicitare i loro meccanismi biologici. Perché un conto è la libertà, un conto è la schiavitù. Sono due contesti che non possono avere un trait d'union. Cosa puoi dirci sulla situazione di DJ3, imprigionata anche lei lì da anni, e anche dei lavori che adesso si stanno svolgendo all'interno della prigione del Casteller? Ecco, poi vi possiamo dire che cos'è che si vive lì dentro, in questo recinto, che dove i lavori fervono, bisogna renderlo a norma questo recinto, questa prigione. Quindi bisogna realizzare un'altra gabbia esterna a quella in fase di costruzione a servizio dell'altra carcerata che è lì dentro da 9 anni, DJ3, una povera orsa che è finita lì dentro perché aveva sbranato una pecora. Tutta la vita le stanno portando via, tutta la vita. Di cosa devono vivere questi orsi? Se non viene data la possibilità anche di predare, se non gli viene data la possibilità di poter mangiare, di cosa devono vivere? A quel punto perché li hanno reintrodotti? Se poi c'è sempre l'ostruzionismo da parte della zootecnia, e a salvaguardia degli interessi della zootecnia si vanno a compiere questi crimini, perché questi sono crimini che sono stati commessi nei confronti di questi individui viventi. Poi, attenzione, stanno sostituendo i setti divisori elettrificati interni con barriera in cemento. Passiamo dall'elettricità al cemento. E sapete perché? Perché M49 si attacca alle barriere elettrificate, le morde. La pannellatura con lastre in metallo liscio della recinzione perimetrale per l'intera altezza, furbescamente, perché se gli orsi hanno un appiglio con i loro unghioni, riescono, no? A scavalcare, e lo hanno anche dimostrato, ma se la superficie è liscia, sfido chiunque. In più, lì dentro, in questo momento c'è la realizzazione, fervono i lavori anche per la realizzazione di un'altra gabbia distante circa 200 metri dal recinto faunistico, dove eventualmente potrebbero ospitare eventuali individui rinvenuti in difficoltà per l'attività di recupero alla vita libera che possa comunque essere utilizzata per l'eventuale isolamento degli individui ospitati dalla struttura. Quindi, signori e signore mie, qui si parla di, riassumendo, gli orsi vivono tra gabbie, ferro, cemento, solitudine, tane, bunker. E chi più ne ha più ne metta. Pannelli di rinforzo. Cioè, questa è la vita all'interno del Casteller. Ma sfido chiunque di voi che in questo momento sta ascoltando a dire che questa può essere ancora considerata vita. Però attenzione, con questo noi non vogliamo dire che a questi orsi deve essere sottratta la tortura con la rimozione, perché loro la chiamano la rimozione definitiva, che equivale a una mattanza, come quella che è stata fatta a KJ2, a quella che è stata fatta a Danica e ad altri orsi. No, no, no. Noi ci batteiamo e ci batteremo perché a questa forma di non vita venga data la possibilità di riacquistare quello che spetta a questi orsi di diritto, ovvero la libertà. È il prima possibile, perché attenzione, più il tempo passa, a parte che in questo momento, con tutto quello che è emerso, la vita stessa degli individui qui reclusi è in pericolo. La vita di M57 è in pericolo. La vita di M49 è in pericolo, perché non accettano, si ribellano a queste forme di schiavitù, a questa forma, rivogliono quello che gli è stato estorto e fanno bene. E lottano. M49 sta attuando lo sciopero della fame, non sta più mangiando, quindi è in pericolo la sua vita, tant'è che si ribella e hanno dovuto sedarlo. Basta leggere la cartella clinica, è un continuo infierire sul corpo, sulla psiche di questo povero orso. Per forza bisogna tenerlo calmo, perché altrimenti continua a sbattere, si sfascerebbe. Quindi cos'è che devono fare? Lo sedano. Per M57 anche lui non è da meno. DJ3 è un'orsa morta che cammina, ha paura della sua ombra. E la vorrebbero trasportare, attenzione, la vorrebbero trasportare all'Oasi faunistica, al parco faunistico di Spor Maggiore, come esibizione, così le persone vanno lì, pagano il biglietto per poter vedere l'orsa. Ce ne sono già due lì, quindi diventa oggetto di marketing. Un'orsa che ha paura della sua ombra. Com'è possibile pensare che possa essere esposta a un pubblico vociante, urlante, ai flash delle macchine fotografiche? Com'è possibile così un alto spregio della dignità? Qui si tratta dello spregio della dignità degli orsi, dello spregio della dignità di individui viventi. È una vergogna questa, è una vergogna. Come volete che vivano? Sia M49 che M57 saranno costretti per circa 4 mesi, quindi i tempi di realizzazione dei lavori di adeguamento. Attenzione, di adeguamento significa che quello che io ho detto prima, la costruzione di altre 2 celle leggermente più grandi passeranno da 12 metri quadri a 24 metri quadri. M49 avrà 24 metri quadri a disposizione. Ma bisogna far passare 4 mesi, no? Più o meno, per il compimento, per la realizzazione, per lo svolgimento dei lavori, per il loro compimento. Quindi saranno costretti a vivere ancora 4 mesi in questi spazi così esigui, piccoli, praticamente delle gabbie, senza pri privi completamente di stimoli ambientali. Tant'è che le cartelle cliniche parlano chiaro. Anche il referto del sopralluogo dei carabinieri dei CITES parla chiaro. I 3 individui ospitati nelle strutture sono stati sottoposti a sedazione al fine di mitigare gli effetti stressogeni del disturbo causato dai lavori di realizzazione delle predette opere. Peccato che omettano che comunque lo stress non dipende soltanto dalla presenza degli operai che sono lì, che faranno rumore, che no. Il problema è la cattura, il problema è la prigionia. Questo è il problema grosso. Il problema è la mancata accettazione da parte della politica. Questa giunta trentina è sempre stata contraria. La corrente politica leghista ha sempre dichiarato il proprio dissenso alla reintroduzione degli orsi. Non lo ha mai digerito, non lo ha mai accettato. Quindi adesso che può finalmente governare, lo manifesta chiaramente e ovviamente chi ha la stessa ideologia politica appoggia. Ecco perché è importantissimo, quando si fanno questi progetti, soprattutto di reintroduzione di animali in un territorio, in un ambiente che ne aveva precedentemente, per motivi vari, perché non possiamo pensare che i motivi del 1700, i motivi di sterminio, i motivi di caccia, di non accettazione dell'orso nel 1700 siano uguali a quelli del 2020. No, non possono essere uguali, però possono essere comunque avere una radice culturale di fondo. Che è quella appunto della mancata accettazione che l'orso sia una ricchezza per il territorio, ma non in termini di denaro, di economia e di oggetto di marketing come appunto il parco faunistico o via discorrendo, no, no, proprio come una ricchezza di peculiarità del territorio, una bellezza, la natura è bella, la natura è bellezza, quindi se non si riconosce, no, se non si accetta che l'orso sia ugualmente bello, se non di più, che so, della più moderna pista da sci, saremo sempre a questo punto. La pista da sci va protetta, va salvaguardata, va vezzeggiata, perché fa parte del contesto culturale odierno. L'orso no, l'orso no. Perché affonda ancora la sua presenza nella nel rapporto ancestrale uomo-orso che non è stato ancora superato. Ecco perché, ripeto, bisogna stare veramente molto molto attenti, perché quando si fanno le introduzioni di questi animali bisogna pensare anche che ci sono frange politiche che esasperano. Questo conflitto, questo contrasto, siamo arrivati, perché in questo momento siamo arrivati al culmine, ma non è che prima non ci fosse il dramma, c'era anche perché Danica è stata ammazzata vilmente sotto un'altra, con un altro indirizzo politico. Con un altro indirizzo politico, ma adesso probabilmente questa situazione si è incancrenita proprio perché bisogna tenere conto di questo, che la politica è tutto un sali e scendi, è fluttuante, quello che c'è oggi, domani può cadere nell'ombra per poi risorgere, quindi non possiamo, non è giusto, non è moralmente giusto e non è politicamente accettabile che la sorte di individui viventi sia giocata come fossimo alla roulette, 50-50, 50% di possibilità di poter vivere, 50% di possibilità di morire a seconda di chi detiene le fila del potere. È allucinante, allucinante questo, quello che sta accadendo. Quello che è stato permesso che accada. Quindi bisogna proprio cambiare i paradigmi mentali, ma il più in fretta possibile, il più in fretta possibile. Io credo che non sia la linea politica del governo ciò che può garantire la libertà degli animali non umani, ma è, come dicevi giustamente tu, è necessario un cambiamento di rotta deciso dalla collettività tutta. Ti va adesso di parlarci più nello specifico del vostro sciopero della fame? A volte ci sentiamo dire spesso, ma perché siete scese in lotta a fare mediante lo sciopero della fame? Che cosa chiedete? Che cosa volete? No, no, no, no. Noi premettiamo sempre che la nostra azione non vogliamo che sia letta dall'opinione pubblica che ci sta seguendo e che ringraziamo, che veramente ringraziamo di cuore per tutto il sostegno e per tutto l'affetto che anche tramite comunicazione privata, soprattutto tramite comunicazione privata, ci viene dato, ci conforta, ci rincuora, perché comunque è un periodo anche questo duro per noi, dal punto di vista fisico, indubbiamente, ma anche dal punto di vista psicologico, perché è una pressione non indifferente. Quindi noi non vogliamo chiedere ai poteri forti qualcosa, aspettando che i medesimi magnanimamente ci diano udienza, ci facciano qualche telefonatina di rito e ci dicano: oh, ma signore, state tranquille che ci pensiamo noi, voi tornate a mangiare che ci pensiamo noi. No, no, no, no, non è proprio quello che sottende alla nostra lotta. Tramite la nostra lotta noi vogliamo comunicare che noi nulla vogliamo ci venga dato, ci venga regalato dal potere o dal sistema. Quindi, se noi non vogliamo nulla, se noi non vogliamo nulla, perché siamo scesi in lotta? Siamo scesi in lotta perché ribadiamo che il governo italiano è la provincia autonoma di Trento che devono dare qualcosa. E sono gli orsi che glielo stanno chiedendo. Sono gli orsi che vogliono, pretendono giustizia e vogliono che venga restituito loro ciò che gli è stato estorto: la vita, la dignità, la libertà. Purtroppo la vita a quelli che sono stati ammazzati non gliela restituirà più nessuno. Però adesso il 12 c'è un processo importante, c'è un'altra udienza di un processo che andrà avanti indubbiamente a carico dell'altro, del precedente governatore Ugo Rossi, sempre della provincia di Trento. che aveva deliberato per la rimozione definitiva di KJ2, che è stata uccisa, fucilata davanti ai suoi piccoli. Non gliela potrà più restituire nessuno la vita a questa orsa, ma deve essere fatta giustizia, perché se si riesce a fare giustizia, si potrà anche impedire che il medesimo crimine venga perpetrato a danno di qualcuno dei 63 orsi che ancora sono liberi in Trentino. Sì, in effetti di KJ2 e di questo processo ne avevamo parlato anche ai nostri microfoni in trasmissione perché ci sembrava un punto molto importante. Provo prima di salutare Stefania perché il tempo a nostra disposizione è terminato, a riepilogare velocemente quali sono gli obiettivi dello sciopero della fame di Stefania e Tiziana. E, sicuramente l'obiettivo è il sequestro immediato della struttura del Castellar e la conseguente liberazione degli orsi e dell'orsa che vi sono all'interno e gli orsi ovviamente devono essere immediatamente liberati, ritornare in natura, nel loro luogo di vita naturale che è il bosco, ma essendo orsi che hanno subito un forte stress, mi spiegava Stefania a microfoni spenti che anche per l'azione congiunta che stanno svolgendo con altre associazioni animaliste hanno deciso congiuntamente di ritenere necessaria una valutazione della salute psicofisica di questi orsi. Di quest'orsa, che però avvenga sotto la supervisione di chi in questo momento sta lottando con e per questi orsi, quindi delle associazioni animaliste e soprattutto appunto di chi lotta attivamente come Stefania e Barbara, e nel caso valutare che siano riequilibrati insomma questi orsi dopo la valutazione psicofisica per poter poi tornare però in libertà. Noi non possiamo che ringraziare Stefania e Barbara per l'azione coraggiosa che stanno portando avanti, ma soprattutto ringraziamo anche Stefania per questo contributo molto prezioso e molto chiaro, e i nostri microfoni sono sempre disponibili per te e per voi. Siamo arrivati ai saluti, alla fine della nostra trasmissione per questa puntata. Io vi ricordo solamente, come al solito, il canale Telegram, la Mucca Libera, e la mail per scriverci, la Mucca Libera @autoproduzioni.net. Un saluto a tutte e a tutti, ci ascoltiamo la prossima settimana, sempre il lunedì alle ore 19. E il martedì alle ore 11 in replica su www.radioasilo.it. Un saluto a tutte e a tutti. My Lucifer is lonely. Standing there, killing time. Can't commit to anything but a crime. Leaders on vacation. An open invitation. Animals, evidence. Pearly gates look more like a picket fence. Once you get inside them, got friends but can't invite them. Hills burn in California. My turn to ignore ya. Don't say I didn't warn ya. The good girls go to hell. Cause even God herself has enemies. And once the water starts to rise and heaven's out of sight, she'll want the devil on her team. My Lucifer is lonely. Look at you, needing me. You know I'm not your friend without some greenery. Walking wearing feathers, Peter should know better. Your cover-up is caving in. Man is such a fool, why are we saving him? Poisoning themselves now, begging for our help. Wow, hills burn in California. My turn to ignore ya. Don't say I didn't warn ya. The good girls go to hell. Cause even God herself has enemies. I cannot do this snowflake!